America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, siamo sotto la lente di ingrandimento della comunità internazionale finanziaria, politica, economica e industriale. Quindi non si tratta soltanto di obbligazioni, non si tratta soltanto di spread sul Bund, ma si tratta di un paese, il nostro, che il presidente Barack Obama ha definito come un paese forte dal punto di vista della solidità di fondo delle sue strutture industriali, ma che non riesce in qualche modo a rimettersi in moto. E dunque, nel momento in cui si sta discutendo un nuovo governo, è importante capire quali sono le sfide, direi quelle più concrete, quelle più pratiche con cui ci dobbiamo confrontare. Abbiamo con noi ai microfoni di America 24 Gianfelice Rocca, presidente del gruppo Techint, un gruppo da 28 miliardi di dollari di fatturato, 50.000 persone occupate intorno al mondo, ed è questa una delle ragioni per cui ritengo sia importante fare questa chiacchierata, perché Gianfelice Rocca ha una visione out of the box, come si direbbe in America, una visione che non è soltanto nel contesto nostro italiano, ma vede qual è il contesto e la dinamica competitiva nella quale ci dovremo muovere nei prossimi anni. Buongiorno, dottor Rocca. Buongiorno, saluti a tutti. Allora, siamo in un momento, direi, storico per l'Italia. Il governo su cui tutti ragionano, secondo lei può farcela? È la soluzione giusta? Io penso e mi auguro che la soluzione Mario Monti possa prosperare, e mi auguro che non solo prosperi, ma che prosperi con un appoggio dei principali partiti italiani. Noi abbiamo la necessità di revertire prima di tutto le aspettative e intervenire dimostrando di controllare lo stock di debito che abbiamo con dei provvedimenti immediati, chiamiamoli dei provvedimenti shock. Ma dobbiamo anche dimostrare, questa è la cosa più difficile, che siamo in grado di generare quei flussi che fanno sì che questo stock di debito venga progressivamente nel tempo ammortizzato. Io ho ricordato talora che il grande debito americano del dopoguerra non è stato recuperato solo con dei surplus primari e con austerità, questo è stato fatto per 2 anni soltanto, è stato invece mangiata dalla crescita, cioè crescendo il paese è diminuito il debito, il rapporto fra debito e PIL. Quindi noi abbiamo la necessità di dimostrare a noi stessi, ai mercati, la capacità di crescere e quindi di fare in modo che il debito progressivamente diminuisca. Qualcuno può pensare che eventualmente vadano male le cose, si possa tornare a una valuta governata dagli stessi stati nazionali e quindi più competitiva perché risolve una quantità di problemi. Io, per l'esperienza che ho avuto in Argentina, quando l'Argentina ha abbandonato il cambio fisso col dollaro, o l'esperienza che ho avuto in Messico, quando il Messico ha abbandonato il cambio fisso col dollaro, ebbene, sono esperienze tremende. Diciamo che noi potremmo immaginare una salvezza, ma al di là di una valle della morte, una Death Valley, al di là della quale uno può immaginare un futuro glorioso, ma prima di arrivarci per i risparmi delle famiglie. Io ricordo che in Argentina sono cambiati 5 presidenti della Repubblica in una settimana e che i risparmiatori si sono visti i propri risparmi cambiati a un valore un terzo in una nuova valuta e che non potevano ritirare dalle banche. Questo tema di che cosa significa uscire dall'euro è un tema che dobbiamo tenere ben presente. È per questo che questo governo e questo impegno, che è l'unico che ci può consentire di restare nell'euro permanentemente, diventa per noi di un'urgenza fondamentale. Il tempo è scaduto e questa è veramente l'ultima spiaggia. Come inquadra le sfide con cui ci dobbiamo confrontare? Prima di tutto dobbiamo essere fieri del fatto che l'Europa, vissuta come un consolidato europeo, ha avuto oggettivamente successo. All'interno dell'Europa nascono i problemi, perché questo sistema, diciamo, di governance europeo, questo sistema di aggregazione, non credo che possa reggere nel lungo periodo nei termini in cui è stato pensato. E quindi qui ci sono due lati del lavoro che va fatto. Da una parte c'è la necessità di convergenza all'interno dei singoli paesi per quanto riguarda la politica industriale e la capacità competitiva, ma facendo i compiti a casa noi dobbiamo contemporaneamente, dimostrando di farli, chiedere all'Europa di fare un grande salto di qualità rispetto all'emissione di bond comuni, rispetto a una fiscalità comune, rispetto a un forte trasferimento di sovranità. E dunque, sapendo che questi problemi di non uniformità fiscale, per esempio europea, sono una costante, occorre che ci rimbocchiamo le maniche, che ce le rimbocchiamo nei confronti di chi? Della Germania. Dobbiamo rimboccarci le maniche nei confronti della Germania, perché essendo nella moneta unica, nel mercato unico, noi non possiamo che farlo rispetto alla Germania. E siccome noi abbiamo visto che abbiamo perso circa 25 punti percentuali di competitività rispetto alla Germania, noi sappiamo che abbiamo 3 aree di lavoro. Una è l'area industriale, dove noi siamo competitivi nel mondo, però anche in queste aree, dovute anche agli aspetti esterni che queste aziende pagano costo del capitale molto maggiore, pagano tasse molto maggiori, hanno servizi più costosi, in quest'area noi abbiamo perso, noi riteniamo, circa un 6% di competitività rispetto alla Germania. Ma dove abbiamo perso molta competitività è nelle aree cosiddette non tradable, nelle aree dove, non esistendo una competizione che viene dall'esterno, l'autodisciplina in Italia funziona peggio di quanto abbia funzionato l'autodisciplina in Germania. E questo è il secondo grande dove liberalizzazioni, concorrenza devono fare il loro lavoro. Ecco, perché diciamolo, la Germania non è che ha soltanto approfittato di una così moneta unica che tornava a suo vantaggio, ha fatto delle cose molto concrete. La Germania ha migliorato di molto la competitività delle sue imprese, e questo vuol dire innovazione, rapporto con le risorse umane, sistema scolastico. Questo ha poi portato ad aumentare la popolazione attiva. In ultima istanza, dopo 10 anni di sforzi di aumento di produttività e di competitività, e questo ha portato a un grosso aumento del prodotto lordo. Questi sono i 3 versanti su cui noi dobbiamo lavorare. Se dobbiamo pensare al brevissimo termine, dovendo fare dei decreti immediati, quali sono le priorità? Si è parlato, per esempio, di pensioni di anzianità, si è parlato di una patrimoniale, si è parlato di salari pubblici. Lei è d'accordo? Io sono questo? Totalmente d'accordo, perché ritengo che fra l'altro ci sia un problema anche di accettabilità, chiamiamola sociale, di un fenomeno di questo genere. Questo è un momento in cui tutti devono fare la loro parte. Noi stessi come Confindustria siamo arrivati noi a proporre la patrimoniale, ma che vuol dire la patrimoniale? Ma vuol dire che una quota delle imposte sia raccolto attraverso una tassazione dei patrimoni che non si muovono di fatto, e che le entrate così ottenute vadano sostanzialmente a ridurre, quindi è la riforma fiscale, la tassazione sul lavoro e la tassazione sulle imprese. Abbiamo proposto una crescita di IVA rispetto all'IRAP, che vuol dire favorire le esportazioni rispetto ai consumi interni, cosa necessarissima, e nel contempo dobbiamo lavorare sulla flessibilità del lavoro, che è un tema rilevantissimo per aumentare la produttività e l'efficienza. Quindi dobbiamo lavorare su tutti i fronti che compongono, diciamo, un progetto sociale, un progetto economico, un progetto politico. E gli industriali sono pronti a fare la loro parte in questo? In un contesto in cui la politica alta, la capacità di governo economico del paese si accresce, anche le parti sociali devono cambiare il loro ruolo. Cioè oggi Confindustria si è trovata a svolgere ruoli un po' sostitutivi rispetto a una carenza di governabilità d'insieme, ma è arrivata anche, devo dire, a proporre cose abbastanza coraggiose come la patrimoniale proposta dagli industriali. Credo che però ognuno dovrebbe rientrare in ruoli più tradizionali, più tecnici, più di servizio alle imprese, in un contesto dove però la politica deve essere più forte e non meno forte. Ci sarebbero 1000 altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, era nell'aria da qualche mese, però adesso è ufficiale. Black Sabbath si riuniranno per un tour nel 2012. The Black Sabbath, Iron Man. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.